Vado nella giungla, giù in città, in Borgo Bagonga, in Borgo Baga. Vado nella giungla, giù in città, in Borgo Bagonga, in Borgo Baga. Non faccio come Tarzan che in pratica c'è nato, non faccio come Salgari che non c'è mai stato. Vado nella giungla, giù in città, per vedere se hanno un'influenza marginale su di me. I muri, le strade, la folla intorno a me, per veder chi è che matto non è, per veder chi è che matto non è, per veder chi è che matto non è. Son matto, matto io, matto io, matto te. Son matto, matto io, matto io, matto te. Son matto, matto io, matto io, matto te. Son matto, matto io, matto io, matto te. Vado nella giungla, giù in città, in Borgo Bagonga, in Borgo Baga. Vado nella giungla, giù in città, in Borgo Bagonga, in Borgo Baga. Bisogna stare accorti, è pieno di sciacalli. Bisogna stare attenti ai notai e dagli inganni. Vado nella giungla, giù in città, per vedere se il metabolismo della giungla attorno a me ed il picacismo che io vorrei possono funzionare e quindi determinare una volta per tutte il matto chi è, una volta per tutte il matto chi è, una volta per tutte il matto chi è. Son matto, matto io, matto io, matto te. Son matto, matto io, matto io, matto te. Son matto, matto io, matto io, matto te. Son matto, matto io, matto io, matto te.